Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Città del Messico, 17 ottobre 1968. Nella capitale centroamericana si sta svolgendo la 19ª Olimpiade dell'era moderna. Nello stadio olimpico della Ciudad Universitaria si sta per svolgere una delle finali più attese dell'atletica leggera, quella dei 200 metri piani. È la prima Olimpiade in cui è stato introdotto per le gare di atletica il cronometraggio elettronico. I record stabiliti qui, quindi, particolarmente abbondanti per via delle condizioni favorevoli determinate dall'altura, apriranno una nuova epoca. Alle 19.30 circa, ora locale, gli 8 finalisti si avvicinano ai blocchi di partenza. L'attenzione dello stadio si concentra tutta sulla gara. Nell'impianto cala un silenzio di tomba. La partenza è buona, scatta molto bene Norman all'esterno, bene anche il francese Bambouk. Ecco che però viene fuori prepotentemente Carlos. Ecco Carlos, esce dalla curva Carlos nettamente in testa. Ma c'è il ritorno di Schmidt, Tommy Schmidt, prepotente Tommy Schmidt, grandissima progressione e vince Tommy Schmidt. Il tempo è 19.83 ed è il nuovo record del mondo. Afroamericano, 24 anni, primo uomo a correre i 200 metri sotto i 20 secondi. È il nostro primo personaggio di oggi. Tommy Schmidt. Un campione olimpico destinato alla leggenda, al mito, non solo sportivo. Non solo quindi perché il suo straordinario record del mondo è destinato a durare per 11 anni, fino al 1979, fino a quando Pietro Mennea, sempre in altura, sempre a Città del Messico, lo frantumerà. Tommy Schmidt rimarrà scolpito nella storia visiva del Novecento per un incredibile gesto politico che compie durante la cerimonia di premiazione. Le Olimpiadi messicane del 1968, infatti, sono indubbiamente le Olimpiadi più politicizzate che si siano mai svolte, segnate da proteste, gesti ed eventi clamorosi. Non è un caso. Siamo nel 1968, l'anno che vede in tutto il mondo rivolgimenti e sconvolgimenti di ogni tipo. La primavera di Praga, le lotte antirazziste in tutto il mondo e soprattutto negli Stati Uniti, l'omicidio di Martin Luther King, l'inizio della protesta studentesca, la guerra in Vietnam. Il 1968 non sembra un anno, sembra un decennio per la densità e l'abbondanza di avvenimenti clamorosi che vi accadono. Le Olimpiadi non ne rimangono fuori. La prima vicenda spinosa che travolge i giochi è quella della partecipazione del Sudafrica dell'apartheid che il Comitato Olimpico Internazionale sembra accogliere. Le proteste da tutto il mondo e il rischio di boicottaggio da parte degli atleti neri di tutte le nazioni fanno restare Pretoria fuori dai giochi. Si aggiunge poi la follia del governo messicano che compie un'orrenda strage di studenti pochi giorni prima della cerimonia di inaugurazione olimpica. All'origine del massacro ci sono le incursioni che i granaderos, i poliziotti messicani, iniziano a compiere nelle università e alle quali gli studenti si oppongono iniziando a manifestare contro il presidente Díaz Ordaz. Questi accusa gli studenti di voler boicottare i giochi con le loro proteste e ordina l'occupazione militare dell'Università di Città del Messico con centinaia di arresti. Si arriva alla notte tra il 2 e il 3 di ottobre con gli studenti che si danno appuntamento in piazza Tre Culture per una manifestazione alla quale il governo risponde ordinando una strage. La piazza viene bloccata in ogni accesso. L'esercito spara da elicotteri ed edifici. Del massacro non si avranno mai cifre ufficiali, ma si parla di centinaia di morti. E l'efferatezza dell'azione scuote l'opinione pubblica con manifestazioni che nascono un po' ovunque per portare solidarietà agli studenti messicani. Nonostante tutto, il presidente del CIO, Avery Brundage, decide che si debbono disputare regolarmente a Città del Messico, una scelta che farà discutere. Appena aperti i giochi, fa scalpore il caso di Vera Czaslavska, la ginnasta cecoslovacca già pluridecorata che arriva in Messico dopo un periodo particolarmente duro. Vera, in aprile, aveva firmato la lettera delle 2000 parole, il documento simbolo della sollevazione cecoslovacca contro la tirannia sovietica. Quando i carri armati dell'Unione Sovietica entrano a Praga, Vera, come tutti i firmatari della lettera, deve cercare di sfuggire all'arresto, rifugiandosi sulle montagne, continuando ad allenarsi usando gli alberi. In extremis, riesce ad avere dal governo il permesso di partire per il Messico e qui trionfa. vince il concorso generale, il volteggio, il corpo libero, le parallele e anche due argenti, diventando così un simbolo di libertà. In questo contesto, la sera del 17 ottobre, arriva il clamoroso gesto di Tommy Smith e del suo connazionale John Carlos, che in quella finale dei 200 metri è raggiunto terzo. Al momento di salire sul podio, i due si presentano davanti a milioni di telespettatori scalzi, con una compostezza che cela quasi completamente l'euforia per la vittoria. Salgono sul podio lenti, quasi solenni. Quando parte The Star Spangled Banner, l'inno americano, i due chinano il capo e alzano un pugno, il destro Smith, il sinistro John Carlos. Sulle loro mani un guanto di pelle nero. È il gesto simbolo solenne ed emozionante dell'organizzazione afroamericana per i diritti civili, denominata Pantere Nere. Le Black Panthers, nel 1968, sono una neonata organizzazione che lotta per i diritti dei neri afroamericani di stampo marxista-leninista. Fondata ufficialmente nel 1966 a Oakland, l'organizzazione si discosta nettamente dalle lotte portate avanti in quegli anni da Malcolm X e da Martin Luther King. In particolare, le Pantere giudicano inefficace la non violenza predicata da King, addirittura la ritengono frutto di qualche collusione con il potere bianco. Le Black Panthers introducono i concetti di self-defense e di patrolling. In poche parole, i neri, a loro modo di vedere, si devono organizzare per difendersi preventivamente dagli abusi di potere dei bianchi, in particolare della polizia, e devono farlo formando in tutte le città americane delle ronde armate che possano pattugliare, tenendo le armi bene in vista, le zone più calde. Il gesto dei due atleti americani è destinato a sollevare un polverone inaudito, questo lo sanno bene. La medaglia d'oro, l'uomo che ha ideato quella protesta che passerà alla storia, Thomas Smith, meglio conosciuto come Tommy, è nato a Clarksville, nel Tennessee, il 5 giugno del 1944, settimo di 12 figli. Da piccolo, dopo essersi salvato da un terribile attacco di polmonite, lavora come molti suoi compagni afroamericani in condizioni inumane nei campi di cotone. Presto però, visto che il ragazzo è determinato e ama lo studio, si riesce a iscrivere all'università, dove ottiene due lauree in educazione fisica e in sociologia. Come molti giovani americani, si cimenta negli sport a livello universitario, diventa un discreto giocatore di football e soprattutto un formidabile sprinter. Ottiene in breve tempo ben 13 record universitari. Sconfiggendo un pregiudizio dopo l'altro, Smith giunge fino alla nazionale maggiore. Ai trials, le competizioni americane per decidere chi andrà alle Olimpiadi, corre i 200 metri in 19,70, un record impressionante, che non viene omologato perché Smith corre con scarpe speciali, con una settantina di chiodini sulla suola. Parte comunque per Città del Messico da favorito. E da favorito vince. Il perché di questo gesto? Beh, siamo stufi di essere cavalli da parata alle Olimpiadi e carne da cannone in Vietnam. L'immagine di Smith e Carlos con il pugno alzato fa il giro del mondo. I due appartengono al movimento OPHR, Olympic Project for Human Rights, nato verso la fine del 1967 per iniziativa di alcuni atleti neri con il fine di organizzare un boicottaggio delle Olimpiadi che si sarebbero tenute l'anno seguente a Città del Messico. Il leader del progetto è Harry Edwards. Edwards, pur appoggiato da Smith e da altri, non riuscì però a convincere gli atleti neri della nazionale olimpica a partecipare al boicottaggio. I due atleti sfruttarono quindi il palcoscenico offerto dalla premiazione per rovinare la festa ai connazionali e a tutto il mondo. Volevamo rappresentare l'altra faccia del nostro paese, dare voce a un sentimento che sentivamo il bisogno di esprimere, la consapevolezza di essere oppressi fin dalla nascita. Correre non era l'unica cosa che sapessimo fare. Una decisione libera che poco aveva a che fare con la militanza. Abbiamo deciso di affrontare un problema di cui nessuno si curava, senza preoccuparci del giudizio degli altri. Abbiamo compiuto un sacrificio sperando di spianare la strada ai ragazzi dopo di noi, perché avessero un'opportunità. Smith lo definisce un sacrificio. Un sacrificio implica una rinuncia a qualche cosa. Quando lui e Carlos compiono quell'atto di ribellione, sanno bene a cosa andranno incontro, a cosa dovranno rinunciare. Alla serenità, alla tranquillità, ma soprattutto all'onor sportivo. Prevedono le reazioni, che infatti puntualmente arrivano. Il Comitato Olimpico Internazionale affida a un'agenzia di stampa questa comunicazione. Atleti degli USA in premiazione hanno deliberatamente violato il principio secondo il quale la politica deve restare fuori dai giochi, approfittando dell'occasione per esternare le loro idee politiche. Il Comitato Olimpico USA è responsabile del loro comportamento e al presidente del comitato chiediamo di intervenire. I dirigenti della delegazione americana prendono immediatamente provvedimenti. Espulsione immediata dal villaggio olimpico, apertura di un'inchiesta. I due in conferenza stampa spiegano i significati simbolici del loro gesto. I piedi scalzi rammentano la miseria. Il guanto nero ricorda i lutti del popolo di colore ed il pugno chiuso testimonia l'unità nella lotta dei neri d'America. Il particolare dei due guanti, in realtà, è decisamente curioso e arricchito da numerose leggende. Alcuni sostengono che al momento di comprare i guanti, la moglie di Smith non avesse pensato che ci sarebbero volute due paia di guanti. Altre versioni vogliono che sia stato Carlos a dimenticarsi in camera il suo paio di guanti e che quindi la soluzione del guanto a testa sia stata improvvisata al momento. Fatto sta che anche sul significato dei due diversi pugni sollevati si scatenano le più strane speculazioni. Siamo neri e ci sentiamo orgogliosi. Sappiamo che i bianchi ci accettano solo come olimpionici, ma sappiamo anche di avere con noi l'America nera. Direte ora di me, un americano ha vinto. Avreste detto invece, un nero ha perso. Voi bianchi ci considerate animali che non pensano, ci trattate come insetti. Quando abbiamo alzato il pugno chiuso, abbiamo visto molta gente farci pollice verso. Bene, noi abbiamo voluto dimostrare che non siamo né bestie, né insetti, né topi. Per voi invece siamo cavalli da esibizione. Vi avverto, bianchi, Monaco sarà molto dura per voi. Vedrete che anche i neri d'Africa hanno imparato a vincere. Quei due pugni levati al cielo diventano un simbolo e una delle immagini più viste della storia del Novecento, almeno del secondo dopoguerra. Per Tommy Smith e anche per il suo compagno di squadra, John Carlos, la vita non sarà più la stessa. Ben consapevoli di ciò a cui sarebbero andati incontro, i due atleti scelgono il loro destino. Se andate a guardare bene quella foto, però, c'è un dettaglio che non può sfuggire a un'attenta riflessione. Trattandosi di un podio olimpico, gli atleti premiati sono naturalmente tre. In mezzo ai due uomini jet afroamericani c'è quindi un terzo uomo, bianco. Dire che si trovi lì per caso forse è una forzatura, dato che si trattava di uno dei favoriti della vigilia. Di sicuro è per uno scherzo del destino che si ritrova nel mezzo di una delle immagini destinate a imprimersi per sempre nella memoria collettiva. Questo atleta è australiano e sceglierà, una volta compresa la situazione, di non essere un semplice e passivo spettatore. E naturalmente ne pagherà le conseguenze. Il suo nome è Peter Norman. Città del Messico, 17 ottobre 1968. Tommy Smith, dopo aver vinto l'oro nei 200 metri piani, compie un gesto di rivolta radicale insieme al compagno di squadra John Carlos, giunto terzo. Sul podio, con le medaglie al collo ma scalzi, i due atleti, appena partono le note dell'inno nazionale americano, alzano al cielo un pugno guantato di nero. La loro è una protesta contro le condizioni ancora difficili dei neri afroamericani, un gesto che scatenerà un putiferio e causerà loro moltissimi problemi. Davanti a loro, sul secondo gradino del podio, c'è un altro uomo, bianco, australiano. Si chiama Peter Norman. Teoricamente estraneo a quella protesta, sceglie di essere solidale con i due atleti americani. Peter Norman è un atleta australiano nato a Melbourne il 15 giugno 1942. Proviene da una famiglia semplice. Suo padre è un macellaio e da giovanissimo Peter sembra seguire le orme del padre. Poi però scopre che studiare non è poi così male. Si appassiona, va al college, inizia a praticare numerosissimi sport, eccelle nel calcio e nello sprint. A soli 20 anni diventa il preparatore atletico della squadra australiana del West Brunswick ed è già uno degli sprinter più quotati del suo continente. Ottiene risultati importanti ai mondiali del 1967 e a Città del Messico si presenta come uno dei pretendenti a una medaglia. Norman si mette in luce fin dalle batterie con tempi straordinari e vola dritto in finale. Qui sa di dover affrontare due veri e propri jet come Carlos e Smith. Fu una finale straordinaria. Avevo visto Carlos partire fortissimo e quindi avevo basato la mia gara su di lui. Smith fece una progressione impressionante, era imprendibile. Io rimontai su Carlos e negli ultimi 10 metri gli tolsi l'argento. 20:06, questo è il tempo di Norman. Mentre Smith va a frantumare il record del mondo, quello di Norman diventa il record australiano. E pensate che oggi, a 43 anni di distanza, lo è ancora. Nel tempo che separa la gara dalla premiazione, i due atleti afroamericani e Norman si parlano. Smith e Carlos spiegano la loro protesta a Norman, lo avvisano. Lo sprinter australiano non ha dubbi, vuole partecipare alla protesta. Ritiene infatti che il governo australiano adotti politiche altrettanto disumane nei confronti di altre minoranze come quella aborigena. Pertanto decide di indossare una spilla del controverso Olympic Project for Human Rights e di associarsi alla protesta. Alcuni raccontano che sia stato Norman a suggerire ai due sprinter di dividersi l'unico paio di guanti disponibile, uno a testa. Comunque sia, anche Peter Norman entra a testa alta in una delle immagini più significative, in quel leggendario 1968. Lo sguardo orgoglioso, puntato dritto davanti a sé, il volto consapevole, solido, fiero. Peter Norman, spesso, non viene nemmeno notato da chi osserva quella foto. Forse era proprio quello che sperava, esprimere solidarietà alla causa degli sprinter statunitensi e poi tornare alla vita di tutti i giorni, godendosi la sua medaglia d'argento. Purtroppo per lui, invece, il Comitato Olimpico Australiano raccoglie con fin troppa veemenza la sua provocazione e decide di fargliela pagare. Sceso dal podio, Norman incontra i giornalisti australiani in conferenza stampa. Credo nei diritti civili. Ogni uomo nasce uguale agli altri e deve essere trattato come tale. Il Comitato Olimpico Australiano, però, gli infligge una reprimenda ufficiale e una piccola multa per quanto accaduto. Al contrario di quanto accadde ai suoi colleghi, non gli viene chiesto di abbandonare il villaggio olimpico. Il peggio, però, viene dopo. Dopo il 1968, tornato in Australia, ero continuamente screditato dai media che mi gettavano fango addosso in ogni occasione. Ho tentato di proseguire la mia carriera di sprinter, ma con mille difficoltà logistiche, perché la Federazione Australiana mi aveva tolto ogni supporto. Norman, però, è un velocista troppo forte e i risultati continuano ad arrivare. Quando si avvicinano i giochi del 1972, Norman è ancora lo sprinter più forte, o meglio, è l'unico sprinter australiano in grado, a livello di tempi e prestazioni, di prendere parte ai giochi di Monaco. A sorpresa, arriva una decisione assurda della Federazione Australiana. Nessun velocista verrà schierato ai giochi olimpici. Norman rimane a casa, escluso e boicottato. Una decisione tremenda e incomprensibile. Da quel podio di Città del Messico la mia carriera sportiva era finita. Così aveva deciso la federazione. Fu tremendo. Dovetti farmene una ragione. Norman e Smith si mantengono in contatto a distanza. Tra i due nasce un legame di amicizia molto forte, reso ancora più solido dalla cattiva sorte che li accomuna in seguito a quella celebre protesta. L'atto di ribellione degli atleti su quel podio non rimane peraltro un gesto isolato. Grazie a loro, altri atleti trovano il coraggio di far sentire la propria voce e protestano contro l'espulsione di Smith e Carlos. Ralph Boston, bronzo nel salto in lungo, si presenta scalzo alla premiazione. Bob Beamon, medaglia d'oro nel salto in lungo, si presenta scalzo e senza la tuta di rappresentanza statunitense. Lee Evans, Larry James e Ronald Freeman, campioni nei 400 metri piani, salgono sul podio con il basco nero in testa. Jim Hines, medaglia d'oro nei 100 metri piani, si rifiuta di essere premiato da Avery Brundage, presidente del Comitato Olimpico Internazionale. Il problema più grande anche per Smith e Carlos si presenta il giorno dopo, quello del ritorno in patria, quello in cui dovrebbe riprendere la vita di tutti i giorni. Ma la vita non può più essere come tutti i giorni, può solo essere diversa, problematica e difficile. La nazionale di atletica li scarica completamente. Il coach del team dei velocisti americani, Stan Wright, gliela giura, la pagheranno cara per tutta la vita. Il conto inizia a presentarsi da subito. Ebbi difficoltà enormi a trovare lavoro nonostante le due lauree. Tutti gli enti statali sistematicamente mi rifiutavano e ovunque venissi riconosciuto venivo immediatamente bollato come personaggio scomodo. In quei primi anni difficili mi venne in aiuto lo sport. Gli sport di squadra erano fra le poche isole in cui negli State si fosse realizzata una quasi effettiva condizione di uguaglianza. Smith gioca 3 stagioni da professionista nei Cincinnati Bengals, squadra di medio livello di football americano, sport in cui lo sprinter aveva dimostrato grandi abilità ai tempi del college. Nel frattempo il suo matrimonio naufraga, i debiti aumentano, i media quando possono sparano a zero. Per fortuna però, progressivamente, si trasforma anche la società americana, lasciando intravedere tempi migliori. John Carlos, l'altro pugno levato al cielo, se la passa, se possibile, perfino peggio. Inizialmente riesce ancora a gareggiare. Nel 1969 diventa campione americano dei 200 metri. Poi l'atletica americana gli chiude la porta in faccia, così come l'East Texas College, dove faceva l'insegnante di educazione fisica. L'atleta impara l'arte di arrangiarsi, fa qualche lavoretto, sbarca il lunario. Anche il suo matrimonio naufraga, ma per problemi ancora più seri. La moglie non regge le pressioni, i pregiudizi e le difficoltà legate all'indigenza. Cade preda alla depressione e si suicida. Per Carlos è un colpo tremendo. Riesce però a tener duro nell'attesa di quella società migliore che con il suo gesto aveva contribuito a formare. Tommy Smith, John Carlos e Peter Norman. I primi due americani, afroamericani. Il terzo australiano, bianco. Tre figure unite dal destino sportivo in una foto che diventa subito leggenda. Sul podio dei 200 metri piani a Città del Messico nel 1968, i due sprinter statunitensi, arrivati primo e terzo, levano il pugno avvolto da un guanto di pelle al cielo. Dura e violenta protesta contro la condizione dei neri negli States e nel mondo, contro ogni forma di razzismo. Norman si associa. Sfoggia una spilla di un'associazione umanitaria che si batte proprio contro il razzismo. Un gesto provocatorio che rompe barriere e getta le premesse per nuove proteste e per una società più equa. Sul piano personale, però, tutti e tre pagano cara questa scelta sulla propria pelle. Carriera sportiva finita, senza lavoro, vite private complesse e tormentate. L'America bianca nella quale fanno ritorno si dimostra ostile nei loro confronti, voltando loro le spalle quando si mettono in cerca di un lavoro, con la conseguenza che anche le loro famiglie si trovano in condizioni difficili. La madre di Smith muore di infarto quando gli agricoltori locali le spediscono ratti morti e letame. Carlos è costretto a usare i suoi mobili come legna da ardere e afferma che sua moglie si è suicidata perché prostrata fisicamente e moralmente dalle condizioni di emarginazione sociale. A partire dalla metà degli anni 70, lentamente, la società americana sembra evolvere e le problematiche razziali sembrano trovare una faticosa via di risoluzione. Non completa, certo, ma le cose in molti stati migliorano. Tommy Smith trova lavoro. Quando ero bambino, ebbi una visione di me in uno stadio, avevo 8 anni. La gente era in delirio per qualcosa che avevo fatto. Io non sapevo che cosa avevo fatto. Stavo semplicemente lì, sul podio, una scatola, come la chiamo io, e loro che urlavano, schiamazzavano, vociavano felici. Nel giro di un secondo l'entusiasmo si trasformò in astio, rabbia e odio. 15 anni dopo, a Città del Messico, successe proprio questo. Nel 1977, per fortuna, la situazione iniziò a sciogliersi. Finalmente, nel 1977, Smith trova un impiego come insegnante di educazione fisica al college e inizia una serena e proficua carriera come allenatore e come educatore. John Carlos trova prima impiego per una nota azienda di articoli sportivi. Poi nel comitato organizzatore delle Olimpiadi di Los Angeles del 1984. Infine, diventa anche lui allenatore. Entrambi vengono inseriti nella Hall of Fame degli sprinter americani e viene eretta una statua in loro memoria nel campus della San Jose University. Il ricordo del nostro gesto è stato ampiamente riabilitato e le nostre vite si sono riassestate, ma non dobbiamo dimenticarci che ad oggi la società americana non è estranea a episodi di razzismo. I neri non hanno ancora raggiunto la piena parità e ci sono zone in tutto il mondo in cui la libertà è ancora un miraggio. Il terzo uomo di quel podio, Peter Norman, non riesce a rifarsi pienamente una vita. All'inizio degli anni 80 si ammala e gli viene amputata una gamba. In conseguenza di ciò sprofonda nell'alcolismo, tra l'indifferenza generale dei media australiani e della Federazione Nazionale di Atletica Leggera. Viene escluso dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Sydney, pur essendo ad oggi il più grande sprinter australiano di tutti i tempi. Il 3 ottobre del 2006 Peter Norman muore di infarto a Williamstown. Finalmente, dopo morto, i media australiani si accorgono di lui e la notizia trova un certo risalto. Molto più spazio però trova negli States. La federazione americana pensa addirittura a un riconoscimento ufficiale da attribuire al velocista australiano per quel gesto storico. Gli verrà concesso. Il 9 ottobre, giorno dei suoi funerali, viene trasformato per lo sport americano nel Peter Norman Day. Il riconoscimento più grande, però, non arriva dagli ambienti ufficiali, ma da due vecchi amici. Quello che Norman fece fu più grande di ogni impresa sportiva. Ci diede solidarietà totale e con il tempo non è mai indietreggiato. né ha rinnegato la posizione che tenne. È la voce di John Carlos. Lui e Smith, infatti, volano a Melbourne il 9 ottobre, accantonando anche, almeno momentaneamente, dissapori nati tra loro su meriti e leadership di quella celebre protesta. Vanno in Australia uniti da uno scopo: reggere la bara del vecchio amico, così come lui, bianco, aveva sorretto con coraggio la loro causa. La scena commuove il mondo e chiude lo straordinario cerchio che si era aperto in quell'indimenticabile fresca notte messicana. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.